metà delle aziende di costruzioni dichiara un reddito inferiore a 50.000 euro lordi all'anno e soltanto il 7% ammette un reddito superiore a 100.000 euro. L'evasione avviene principalmente in due modi: non vengono contabilizzati i ricavi oppure si vendono case, ville e appartamenti a valori inferiori a quelli di mercato. Una villa sulle colline torinesi circondata da un parco di oltre 1.000 metri quadrati, per esempio, è passata di mano a 690.000 euro, giusto la metà, hanno accertato l'Agenzia delle Entrate, del prezzo effettivo, come spiega Carmelo Piancaldini, capo ufficio imprese minori e lavoratori autonomi dell'Agenzia delle Entrate. Abbiamo il 32% dei soggetti che presenta una perdita o un reddito pari a zero, quindi soprattutto se vediamo che ci sono società o imprese che sono costantemente in perdita, questo è un elemento importante che fa scattare, diciamo, la selezione del soggetto per successivi controlli. In totale l'evasione fiscale nel settore costruzioni nell'ultimo anno e mezzo ha raggiunto 2,2 miliardi di euro su un giro d'affari annuale di 115 miliardi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.